Milano, il benvenuto a Milano Linate. Sono le ore 10:50 minuti. Per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando il segnale luminoso non verrà spento e a mantenere telefoni cellulari disattivati fino all'apertura delle porte. Vi raccomandiamo inoltre di aprire le cappelliere con cautela per evitare la caduta di oggetti. Grazie per la collaborazione. Ladies and gentlemen, fellow members, get team number one, welcome you to Milan Linate Airport. It is now 10 minutes to 11 a.m. For your safety, we ask you to remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign has been turned off. And keep your mobile phones switched off until the aircraft doors are open. FedMobile command you to open your lockers carefully as items may fall. Thank you for your cooperation.